La storia e la memoria di Dino Pesole. La notte del 16 ottobre del 1943, le SS naziste fanno irruzione nel quartiere ebraico di Roma. Nel corso del rastrellamento vengono catturati 1022 ebrei romani. Vengono trasferiti per 2 giorni al collegio militare in via della Lungara Trastevere, da dove ha inizio il loro calvario, che li porterà in treno ad Auschwitz attraverso un viaggio terribile di 5 giorni. All'arrivo, sotto la direzione del dottor Mengele, comincia la selezione. I bambini, i vecchi, i malati e coloro che avevano un aspetto debole furono separati e portati subito a morire nelle camere a gas. Erano circa 500. Poi ci fu un'altra selezione, che risparmiò solo 149 uomini e 47 donne, giudicati adatti al lavoro. Furono mandati ai lavori forzati. Degli ebrei che subirono il rastrellamento nazista del 16 ottobre ne tornarono solo 15, 14 uomini e una donna, Settimia Spizzichino. Nessuno degli oltre 200 bambini ritornò. Settimia abitava nel quartiere romano della Garbatella, dove è morta il 3 luglio del 2000, dopo aver speso gli ultimi anni della sua vita a tener viva la memoria della Shoah, soprattutto tra i giovani. Ecco quel che ha scritto Settimia nel suo libro Gli anni rubati. Ci sono cose che tutti vogliono dimenticare, ma io no. Io della mia vita voglio ricordare tutto, anche quella terribile esperienza che si chiama Auschwitz. 2 anni in Polonia e in Germania, 2 inverni. E in Polonia l'inverno è inverno sul serio. È un assassino, anche se non è stato il freddo la cosa peggiore. Tutto questo è parte della mia vita e soprattutto è parte della vita di tanti altri che dai lager non sono usciti. E a queste persone io devo il ricordo. Devo ricordare per raccontare anche la loro storia. L'ho giurato quando sono tornata a casa. E questo mio proposito si è rafforzato in tutti questi anni, specialmente ogni volta che qualcuno osa dire che tutto ciò non è mai accaduto, che non è vero. Adesso molti dei genitori, dei fratelli, dei mariti non ci sono più. Le ferite non sono più così fresche. A quelli che restano, spero di non fare troppo male. Ma adesso devo mantenere la promessa che ho fatto a 47 ragazze che sono morte ad Auschwitz, le mie compagne di lavoro, e a tutti gli altri milioni di morti dei lager nazisti. Lo scorso 16 ottobre, il 70° anniversario della deportazione degli ebrei del ghetto di Roma, è stato rievocato con diverse iniziative, convegni, incontri. Tra questi ultimi segnaliamo il convegno organizzato il 17 ottobre presso l'Istituto Storico Germanico di Roma. Significativa la decisione della comunità ebraica di prender parte all'iniziativa che si è svolta a pochi giorni dalla morte di Erich Priebke, l'ufficiale nazista mai pentito che partecipò alla pianificazione del massacro delle fosse ardeatine. Il comune di Roma ha deciso di non consentire, come sappiamo, che i funerali fossero celebrati in una chiesa della capitale. Anche il vicariato di Roma è sceso in campo, vietando il rito funebre nei suoi edifici di culto. Abbiamo in linea Marcello Pezzetti, che è direttore del Museo della Shoah e curatore della mostra sul 16 ottobre al Vittoriano. Buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a voi. Allora, ci parli delle iniziative per il 16 ottobre e anche del significato che quest'anno, il 70° anniversario della deportazione degli ebrei del ghetto, ha il significato quest'anno anche in riferimento alle polemiche che ci sono state questi giorni sulla sepoltura di Erich Priebke. Per 70 anni si è parlato del 16 ottobre. Il 16 ottobre è, lo sappiamo tutti, la più grande ferita che ha ricevuto l'Italia in quegli anni, e soprattutto la comunità ebraica. Però non si era mai vista. Non si era mai vista, nel senso che non si era mai visualizzata né la situazione né le vittime e nemmeno i persecutori. E 70 anni dopo siamo riusciti a mettere insieme queste cose, e non è un caso che sia la prima volta che si faccia una mostra su questo. Ecco, ci racconti anche della mostra, cioè come si articola e quali sono anche gli obiettivi prevalenti che vi prefiggete. Allora, la mostra è il racconto di quella che è stata questa tragica pagina della storia d'Italia. visto da chi l'ha subito e anche questa volta, per la prima volta, da chi l'ha inferto questo colpo, cioè dai nazisti. Quindi, come dire, i materiali più inediti sono intanto tutte le testimonianze, i documenti, gli oggetti appartenuti alle vittime. Noi abbiamo, non so, dei quaderni scritti da questi bambini che qualche giorno dopo sarebbero stati portati via, quindi i loro ultimi compiti, i loro ultimi pensieri, il loro ultimo tema sull'amore verso la patria, quindi cose molto, devo dire, commoventi. E poi i loro ultimi pensieri, che prima di cui non sapevamo nemmeno l'esistenza. Quindi un lavoro molto molto approfondito presso le famiglie, i discendenti, per avere i loro volti. Ma poi la cosa più interessante è che abbiamo detto dobbiamo capire se c'è qualche testimonianza anche da parte di chi l'ha compiuto. Questo è un punto fondamentale. Punto fondamentale, ha ragione, che di solito non viene preso in considerazione. Allora siamo andati a visionare tutti i verbali dei processi fatti in Germania in cui apparivano dei personaggi che erano qui a Roma e che avevano arrestato degli ebrei qui a Roma. Abbiamo fatto questa inchiesta lunga per più di un anno, abbiamo incrociato questi dati, abbiamo sentito le loro testimonianze e abbiamo deciso di scrivere a più di 350 famiglie in Germania che avessero quei nomi, quei cognomi, e abbiamo trovato ovviamente molte risposte negative, ma una è stata incredibile. Il figlio di uno di questi arrestatori, che non sapeva che il padre fosse un arrestatore, ha ritrovato delle fotografie del gruppo di arrestatori in casa, ce le ha regalate, ci ha mandato una lettera con scritto: se non le usate dovete distruggerle. Ecco, è anche un modo per costruire una memoria che certamente non può essere condivisa, ed è giusto che non lo sia, tra vittime e carnefici, però al tempo stesso è un modo per ripristinare anche il giusto giudizio della storia su questi eventi. Certo, non è che si incrocino le vittime e i carnefici, le vittime danno la loro testimonianza e, come dire, i carnefici, ma anche qui, stiamo attenti a parlare di carnefici tutti allo stesso modo, cioè ci sono i maggiori responsabili e poi ci sono quelli che hanno minor responsabilità, ma che non è che non siano responsabili, soprattutto i riservisti, cioè i nazisti hanno pochi uomini abituati ad arrestare ebrei, quindi prendono i riservisti. Questi riservisti, che nella loro vita non hanno mai fatto i poliziotti, ma hanno fatto i giardinieri, i contadini, si ritrovano ad arrestare ebrei. Lo fanno non in modo passionale, non sono dei volontari, però lo fanno, e alcuni non sanno nemmeno che fine avrebbero fatto questi. Infatti alcuni lo sanno quando li accompagneranno sul treno fino ad Auschwitz, però, come dire, lo fanno, ed è questo che noi racconteremo in questa mostra. Sì, poi ovviamente ci sono state delle iniziative importanti a livello politico. Mi riferisco ad esempio alle visite congiunte che il presidente Napolitano ha fatto con due o tre presidenti tedeschi sui luoghi simbolo delle stragi compiute in Italia dai nazifascisti, Marzappotto, Sant'Anna di Stazzema. Quindi probabilmente anche a livello politico, dopo 70 anni, si comincia a mettere in moto qualcosa. Anche la commissione mista italo-tedesca, che è stata incaricata qualche anno fa. Sono d'accordo con lei, nel senso che, anzi, devo dire che come processo di presa di coscienza di quello che è avvenuto, i tedeschi sono molto più avanti rispetto agli italiani. Sono d'accordissimo con lei. Sì, ecco, è importante che poi anche a livello diplomatico vengano messe a punto delle iniziative per, come dire, non certo per appunto una memoria condivisa, ma per lasciare alla storia il giudizio su fatti sui quali la storia il giudizio ha già emesso, sostanzialmente. Sì, certo, ma questo vale anche per la posizione della Chiesa, è la stessa cosa. Anche qui noi mettiamo dei documenti, sì. E questi documenti ci devono aiutare a dare un nostro significato a quello che c'è stato, rispetto a quello che c'è stato. Bene, la ringraziamo molto, buon lavoro e buona serata. Grazie.